fa un po', che ne so, fa un po', diciamo, strano il fatto che se ne parli così e non si trova nessuno che dice anche un po'. Non parlate della potenza di quest'uomo, ma almeno parlate anche delle cose vere, insomma. Io penso che l'Apple sia stata e ahimè sia una delle più spietate aziende della storia del capitalismo moderno. Cioè, questa è una cosa che va detta, perché le condizioni dei lavoratori diretti e indiretti delle fabbriche Apple sono qualcosa di terribile. Avete citato, credo, sì, la Foxconn, che è appunto per cui gli operai si suicidano a frotte, tanto che hanno dovuto mettere delle reti. Questo è stato il miglioramento imposto da Apple, delle reti sotto le finestre, in modo che se si buttano non arrivano ad uccidersi, insomma. L'altra questione eclatante è anche l'estrazione dei superconduttori di tantalio. Questa è la sostanza che Apple, e non solo Apple ovviamente, compra, acquista dal Congo, dove i minatori congolesi sono in condizioni di schiavitù sostanzialmente. Quindi questo riguardo ai lavoratori. Riguardo al rapporto con i consumatori, beh, insomma, sono sempre stati considerati dei polli da spennare, non solo perché il costo dei computer Apple era sempre più alto di tutti gli altri, ma anche per l'assoluto non rispetto della privacy, per questa sorta di giardino recintato all'interno del quale gli utenti Apple sono tuttora costretti a muoversi, per cui quel computer più o meno comunica solo con quell'altro, e poi se c'hai l'Apple, il Macintosh, l'iMac, devi sicuramente avere anche l'iPhone. Se poi passi al tablet devi comunque prendere un iPad, perché così comunichi meglio, perché c'è l'interscambio, perché e così via. E poi infine anche per quanto hanno lavorato alla chiusura della tecnologia che utilizzavano. Quindi software, hardware, brevetti, cause ad altre aziende accusate di copiare invenzioni e non si sa bene cosa della Apple, con un tradimento tremendo della propria origine, nel senso che l'Apple nasce come azienda di hacker dentro un garage, e l'altro Steve, l'hacker vero, il genio vero dell'hardware, se n'è andato quando ha capito che la Apple stava andando verso un futuro di chiusura, mentre lui aveva sempre preteso che insieme al computer venissero venduti anche tutti gli schemi per poterlo ricostruire. Tanto che il mio primo computer, qui si capisce che qualche anno ce l'ho, era un Lemon 2, ossia un clone di Apple, così come poi dopo ce ne sono stati tantissimi per i PC. Proprio perché allora era possibile, dall'uscita di Wozniak in poi questa cosa non è stata possibile. Quindi, diciamo, questo, insomma, per dire, questo è Apple, questo è dal punto di vista il genio del male di Steve Jobs. Dall'altra va riconosciuto lo stesso Wozniak, proprio ieri sera ho sentito l'intervista che hanno fatto alla CNN. Nonostante se ne sia andato per questi motivi, ha riconosciuto a Jobs questa incredibile capacità di saper prevedere cosa, come e cosa, quando non indurre verso gli utenti, come e cosa sarebbe stata usata la tecnologia. Per cui lui raccontava, dice: io stavo lì che cercavo di finire il mio Apple 2 e lui già ragionava su come dovrebbero utilizzarlo gli utenti, se voleva avere un computer in ogni casa e così via, insomma. Quindi questo va sicuramente riconosciuto, come d'altra parte va riconosciuto nel bene e nel male il fatto che sostanzialmente non ha quasi inventato nulla, nel senso che appunto il primo personal computer è opera di Wozniak più che di Jobs. E anche il mouse, l'interfaccia grafica, è tutta farina che non è del sacco della Apple, perché sono invenzioni, in questo caso per esempio proprio della Xerox, per cui Jobs riesce ad entrare dentro a Palo Alto, in questo parco giochi che era il centro di ricerca di Palo Alto della Xerox, e vede un computer che aveva un'interfaccia grafica e un mouse. Quelli della Xerox non sanno che farsene, lui esce da lì e decide che quello sarà il futuro dei personal computer, e mette a lavorare una squadra di ingegneri per tirar fuori una cosa che funzionasse allo stesso modo e che fosse però più bella, perché Apple ha stile, insomma. Quindi un grandissimo visionario, un grandissimo comunicatore, un personaggio che è stato in grado di dare ai consumatori di Apple un'identità proprio, e più che una... non vendeva prodotti, vendeva veramente un'immagine, identità. Si può dire. Sì, tra ora l'altro questo... è stato anche un geniale... Così, nel mondo del marketing, secondo me ha fatto anche abbastanza scuola. Lui era bravissimo a vendere non soltanto i prodotti Apple, ma anche a vendere se stesso, perché si è costruito appunto questa immagine, come dicevi tu, della Apple. Infatti l'Apple è figa, prima vendeva perché era figa, più che perché funzionava più o meno bene e via dicendo. E poi perché poi in questi ultimi anni, soprattutto lui come icona, si è saputo proprio costruire e crearsi l'immagine del guru, che ora tutti riconoscono. Sono un po' imbarazzanti gli articoli di oggi sui giornali, come stavamo ricordando. Nessuno ha posto neanche la minima contraddizione, non dico, no, che quando si sa che quando uno muore tutti vanno a pescare il meglio di quel personaggio, però far finta che non ci sia nient'altro dietro è un po' così. Beh, insomma, sicuramente è l'ultima grande campagna di marketing di Steve Jobs per la Apple, questo sì. È certo, insomma, probabilmente la più grande e gratuita che lui abbia mai regalato ad Apple, insomma, voglio dire, con un po' di cinismo, però questa dici è la che realtà, risorge, quindi la stampa italiana, credo anche quella mondiale, ma la stampa italiana ha sempre avuto un occhio di riguardo per Apple. Pensate solo alla questione dei cellulari che, se tenuti con la sinistra, gli smartphone, scusate, che se tenuti con la sinistra non cadeva la linea. Se quella cosa fosse successa, che ne so, a Microsoft, sarebbe stata massacrata dalla stampa mondiale. Era successa ad Apple, insomma, è passata abbastanza sotto silenzio. Oppure era ammazza che figo. Esatto. L'hanno fatto apposta. Il cellulare per i mancini, no? Addirittura. Vabbè, chiudiamo con soltanto l'unico dato che a me ha un po' spaventato. Era quello che è morto proprio mentre stava lanciando il suo nuovo prodotto. Sì. Questa concomitanza mi spaventa un po'. Sempre se è morto oppure si sta semplicemente riavviando. Chissà. Grazie Maurizio, grazie, buona ciao, giornata. Maurizio. A presto, ciao, buona ciao. Mattinata.